Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, allora, primo lunedì del mese di agosto e questa è Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino che vi terrà compagnia assieme a un caro amico ormai, perché siamo diventati due corpi un'anima quasi, e si chiama Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera. Buonasera Agostino, lo diceva Guess e Dori Ghezzi un po' di tempo fa, sì. Molto tempo fa. Sì, the show must go on, lo spettacolo deve continuare. Chiaramente andiamo avanti anche in agosto. Che filosofo. No, lo spettacolo deve continuare, andiamo avanti fino in agosto con un programma un po' diverso rispetto alla programmazione di normale. Innanzitutto cominciamo con una specie di indovinello, un giochetto. Provate ad ascoltare questo pezzo, ascoltatori, scusate la ripetizione, e a sentire chi canta questo pezzo. Un indovinello, secondo voi chi canta questo pezzo? Il numero di telefono è 049 87 56 423. Potete telefonare, vediamo se indovinate chi canta il vocalist di questo pezzo. Un pezzo del 67, il gruppo era I Campioni. Un po' difficile, è un po' difficile, io sì. Personalmente non la conoscevo vedi. E non sapevo che fosse lui. È del 67, il vocalist è famosissimo, certo. Però super nel famoso. 67 era poco famoso. Diamo qualche aiutino o no? Non possiamo dare, perché se diamo un aiutino si scopre il discorso. C'è anche un sms 346 23 233, quindi fino alle 22:30 siamo qua. Perché siamo qua stasera? Perché esatto. Dobbiamo. Per un altro motivo. Rolling Stone, la rivista Rolling Stone, la rivista americana Rolling Stone, nel 2005 predispose una classifica dei 500 album più importanti del rock di tutti i tempi. Chiaramente 500 album non possiamo elencarli, non possiamo svilupparli nelle nostre trasmissioni. Ne svilupperemo una quarantina, cioè 10 album alla settimana per arrivare alla fine del mese. Cominciamo col numero 46. Che Legend è una raccolta di Bob Marley. A tal proposito Rolling Stone al tempo scriveva, cioè lo stesso Bob Marley disse a proposito di questo disco e a proposito della musica reggae: la musica reggae è troppo semplice per loro, i musicisti americani ci devono essere dentro, sapere cosa accade e perché vuoi suonare questa musica. Non è che precipiti a suonarla, perché ne vuoi spremere un milione. Però non devi essere americano, diceva Bob Marley. Noi cominciamo con un pezzo famosissimo. Famosissimo perché è stato famosissimo perché? Perché l'ha portato a successo planetario Eric Clapton. Ti ricordi Eric Clapton? Sì, I Shot the Sheriff. Originariamente il titolo originale I Shot the Police. Poi per evidenti motivi Bob Marley lo cambiò in I Shot the Sheriff. Dimmi. Questo non lo sapevo. Vedi. La verità storica è questa. La tua conoscenza. Ed è 73 questo pezzo. La tua pezzo. Conoscenza in questo campo è... No, trago queste mie conoscenze da un libro molto bello di Massimo Cotto, si chiama We Will Rock You, che descrive i lati oscuri del pezzo, cioè i risvolti, gli aneddoti, le curiosità. Questo, ripetiamo, si chiamava I Shot the Police, poi fu cambiato per evidenti motivi I Shot the Sheriff da parte di Bob Marley, fu ripreso da Eric Clapton e lo sceriffo si chiamava John Brown nel testo. Bene. I Shot the Sheriff, questa volta nella versione originale del suo autore, Bob Marley. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. È mitica sta canzone. È mitica, sì. Mi piace veramente tantissimo. Poi lui era sempre bravissimo a creare un'atmosfera particolare con questa sua musica. Insomma. Bravissimo, veramente bravo, veramente bravo. Decisamente. Ripetiamo, questo è The Legend, un'antologia che è ancora in classifica nel rock catalogo, si chiama la classifica Billboard, cioè i dischi da catalogo ancora in classifica negli Stati Uniti, impare al 30° posto, ha venduto milioni di copie, è una raccolta dei pezzi più significativi di questo grande artista. Passiamo a un altro... È un'icona. È un'icona, un'altra icona, No Woman, No Cry. Ecco, questa c'ha una storiella, una storia sotto. La canzone è stata scritta da Bob Marley, ma i cui diritti d'autore furono intestati a un certo Vincent Ford. Si chiamava così, ma per gli amici del ghetto era Jack Tarta o semplicemente Tartat. Lui e Bob erano entrati in prima volta in contatto nel 1958, l'anno dopo l'arrivo di Marley nel popolare rione della Giamaica. Tarta era di 4 anni più vecchio di lui e Bob Marley ne aveva 17 e lui, cioè ne aveva 17 e lui ne aveva 23. Quindi praticamente lentamente è cominciata un'amicizia che portò alla creazione di questo pezzo favoloso. E se lo Shot of the Sheriff è un pezzo decisamente più mosso, No Woman, No Cry è una ballata dolce, delicata, una delicatezza alla reggae, chiaramente. Un pezzo meraviglioso. Bellissimo. Sempre tratto da questo album che si chiama The Legend, e ripeto, una raccolta che racchiude, praticamente mette in evidenza tutti i grandi pezzi di Bob Marley, l'icona del reggae mondiale, ed è, ripeto, ancora nelle classifiche americane, tuttora nelle classifiche dell'album in catalogo, cioè si chiama Rock Catalog Album, al 30° posto ha venduto milioni di copie. No Woman, No Cry. Forse è la canzone che rappresenta più di tutti Bob Marley. Sì, quando sì. Si parla di Bob Marley, sì, si parla subito. No Woman, No Cry. Si accosta subito. L'ascoltiamo, okay. L'ascoltiamo. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ricordiamo che da questo lavoro che si chiama The Very Best of Bob Marley ci troviamo anche Jamming, per esempio, oppure Could You Be Loved, che sono altri pezzi straordinari di questo artista fantastico, insomma. E dobbiamo salutare la Marisa che c'è andata quasi vicino. Lei ha detto Tony Dallara. E ha ragione per un motivo: Tony Dallara faceva parte dei campioni, ma non era Tony Dallara, è stato sostituito da questo personaggio molto giovane all'epoca come vocalist. Ci siamo ritentate, 346 23 233, fino alle 10:30 siamo qua. Ne approfitto per aprire una piccola parentesi in merito alla Marisa, visto che ci ha contattato per dirci di questo giochetto estivo. Tu non lo sai, ma ieri la Marisa ha compiuto gli anni, non diciamo quanti perché l'età della donna non si dice mai, però noi li facciamo, noi di Blu Radio Veneto, da parte mia, da parte tua Maurizio, li facciamo veramente tantissimi auguri di buon compleanno, anche se un po' in ritardo, va bene? Un bacione, okay. Grande, grande. Benissimo, dopo questo è il primo indovinello. la prossima puntata ci sarà un altro, riguarda un altro musicista italiano. Ma intanto scopriamo questo qua. 346 23 233. Casomai dopo la rifacciamo sentire la canzone. Sì, dopo la rifacciamo sentire un pezzettino. Lì passiamo, allora, passiamo alla nostra classifica di Rolling Stones, fatta nel 2005, ripetiamo, una classifica del 2005, i 500 migliori album della storia del rock secondo la rivista, la mitica rivista americana Rolling Stone. Posto numero 45, The Band. Mitica band, proprio band, quindi mitica formazione americana. Tra l'altro c'è un motivo perché, oltre perché fa parte del numero 45 della classifica di Rolling Stone, due settimane fa The Birds, che è un gruppo di Doll che è venuto qua a trovarci, assieme al professor Lurie, ha eseguito dal vivo parecchi dischi, parecchi pezzi della band. Uno fra questi è Across the Great Divide, lo sentiamo nella versione originale del mitica gruppo di Robbie Robertson. Sono le 21 e 31 minuti. Che brava la Marisa, hai indovinato, bravissima. Allora, diciamo l'antefatto. Chi è? Perché Tony Dall'Ara? Perché Tony Dall'Ara era stato il primo... il vocalist, il primo cantante dei Campioni, che è stato sostituito da Lucio Battisti. Era Lucio Battisti che cantava, giovanissimo Lucio Battisti, che suonava la chitarra e cantava nel gruppo di Robby Battano, i Campioni. Bravissima Marisa, cosa vince la Marisa? È un invito. Una partecipazione, un invito al prossimo Rockaway di settembre. Ecco, vieni qua una sera, un mercoledì sera. Vai ad assistere Rockaway. Complimenti comunque. Complimenti, veramente scritto, complimenti. C'è scritto, dopo accuratissima ricerca, posso finalmente dire che è Lucio Battisti. Bravissima, era un po' difficile, sono stato un po' cattivello. Io non lo sapevo. Era un po' difficile, giuro, però è proprio così. Primo Battisti ha cantato nei Campioni, suonava la chitarra e poi è diventato il Battisti che tutti conosciamo. Più tardi, forse ne facciamo un altro. Un po' più, ancora più difficile questo qua, poco più complicato. Però il numero di telefono di SMS è sempre 346 23 233. Ok, chiusa la parentesi un po' così, un po' estiva, ritorniamo ad essere seri con Rock Wave nel senso della classifica di Rolling Stones e passiamo a un altro pezzo di questa mitica formazione. When I Withdraw Dixie Down. Perché? Perché innanzitutto è un pezzo mitico in tutti i sensi, ascoltato da tanti, da me, esibito da tanti, cantato da tanti. Però la prima versione è quella della band. E dove è nato questo pezzo? Scritto da Robbie Robertson, che era il leader del 69, e inserita nel secondo album della band. E la canzone è scritta e racconta gli ultimi giorni della guerra civile americana. Dal giugno del 1864 all'aprile del 1865. Le sue conseguenze, lo fa così con toni alti e partecipi, ad avere interdetto molti a pensare che questo fosse un traditional, ma non è un traditional, è un pezzo di Robbie Robertson, un pezzo meraviglioso. When I Withdraw Dixie Down. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Have taken the very best. Eccoci qua, ci siamo. When I Drove Dixie Down, un classico dei classici. Ripeto, non è un traditional, è un pezzo di Robbie Robertson e della band, mitica formazione americana. Disco del 1969. Numero 44. Horses, Patti Smith. Leggo le testuali parole di Rolling Stone dell'epoca. Innanzitutto c'è un brano d'apertura strepitoso, dura 5 minuti e 53, e come da regola di Rockaway o di Blue Radio Sera, che è la stessa cosa, non verrà tagliato minimamente, verrà sentito tutto quanto, fino all'ultima goccia, come si dice. Sempre. Facciamo sempre così. 5:53. Scrive Rolling Stone all'epoca. Si apre con uno dei classici Garage di Van Morrison. L'album di debutto di Patti Smith fu una dichiarazione di ammutinamento, impegnato nei poteri trasfiguranti il rock and roll. Horses ne fece la regina del punk, ma a lei importava di più la poesia del rock. Cercava le visioni e le passioni comuni a Keith Richard e a Rainbow, e le trovò con l'assistenza di una band superlativa, la citiamo: Richard Shaw al piano, Lenny Kay alla chitarra, Ivan Krall al basso, Joe Dougherty alla batteria. Una band strepitosa. Horses, Patti Smith, che mi pare ci sia stasera a San Marco. Non lo so, tu lo sai. Stasera a San Marco fa un concerto per Emergy. Ok, vai. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Yeah. at the stadium. Ooh, 20,000 girls called my name out to me. Marie, Ruth, but I tell you that show. I didn't hear them, I didn't see. I let my eyes rise to the big tower clock, and I heard those bells chiming in my heart. Going ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Full time. We came in my room. When you whispered to me, we took the deep plunge, and oh, you were so cool. Ooh, oh, you were so fun. And I got to tell the world that I made your mind, made your mind, made your mind, made your mind, made your mind, made your mind. Yeah. Avete sentito Gloria? Non nella versione di Van Morrison, che è già un pezzo meraviglioso, nella versione strepitosa 5:53, fino all'ultima goccia, come abbiamo detto precedentemente, 5 minuti e 53 prima. E questo è il pezzo di riveduto, corretto, no, riveduto, proprio trasformato, completamente ricreato da Patti Smith con Horses 1975. Passiamo al posto numero 43. Questo è un album che è stato centinaia e centinaia di settimane nelle classifiche americane di Billboard, lo è tuttora, sempre negli album dal catalogo. E il defunto, purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa, Richard Wright, che era il tastierista, disse: credo che ogni album precedente sia una tappa verso The Dark Side of the Moon. Imparavamo costantemente le tecniche di incisione e la nostra scrittura migliorava. Era una tappa continua verso The Dark Side of the Moon. Adesso lo presenterà Agostino. Questo è un pezzo che ha scelto Agostino, un pezzo meraviglioso da quell'album mitico. Chi ha comprato? Io ho comprato. Tutti abbiamo comprato The Dark Side of the Moon. L'abbiamo comprato per usare, per sistemare lo stereo, per sentire meglio. Una volta si comprava il disco The Dark Side of the Moon per ascoltare le casse dello stereo. Certo. Poi si è comprato per sentire i CD. E poi... Cioè, un sacco di ristampe continue di questo album mitico. E The Great Gig in the Sky, che è il pezzo che adesso abbiamo scelto, da due pezzi abbiamo scelto da The Dark Side of the Moon. L'altro è famosissimo, non sembra, non occorre neanche citarlo, l'altro. Beh, vabbè, comunque lo, beh, lo citeremo. A proposito di questo The Great Gig in the Sky, ci sono due voci femminili che cantano. La prima voce femminile è a partire a Mitty Watts, che era madre dell'attrice Naomi Watts ed era moglie dell'allora tecnico del suono dei Pink Floyd all'epoca, Peter Watts. Poi c'è un'altra voce femminile, che è Clary Tory, che fu portata in studio da Alan Parsons, te lo ricordi Alan Parsons? È il mitico Alan Parsons del Abbey Road Studio. Alan Parsons, le fu chiesto a questa ragazza Clary Tory di cantare improvvisando ma senza usare parole. Le fu chiesto così, praticamente. Venne pagata solo 30 sterline. Quindi una miseria. Ma nel 2005 fece causa e vinse e fu accreditata come con cospicuo indennizzo, ottenendo decisamente questo indennizzo, a patto che non fosse mai resa pubblica l'entità dell'indennizzo. Questa è la storia del The Great Gigantesca. Questo grande spettacolo nel cielo, insomma, come dicevano loro. Sono i quattro simpatici, tra virgolette, amici, sono i Pink Floyd. C'è la canzone che, come diceva Maurizio, è stupenda, io la adoro tantissimo. Ho selezionato proprio questa canzone proprio perché, secondo me, rappresenta moltissimo questo disco assieme all'altra che ascolteremo. Questo è un pezzo veramente da ascoltare a volume altissimo e far sentire le casse. Oh, è difficile restare veramente senza chiudere gli occhi con questa canzone. Un'atmosfera particolare, dolcissima, bellissima, una voce splendida e una canzone straordinaria. Questo grande spettacolo nel cielo, dicevano i Pink Floyd. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, adesso mettiamo su un pezzo che non ha bisogno di presentazioni. L'abbiamo sentito milioni di volte, ma fa parte di del mitico The Dark Side of the Moon. E parla praticamente di una cosa che purtroppo serve sempre, c'è niente da fare. Assolutamente, senza di quella non si va avanti. È un pezzo talmente famoso che non serve citare il titolo. Lo sentiamo lo stesso e via. Thank you. say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, away, away, away, away, away. Certainly was in the right. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Lunedì 2 agosto, sono quasi le ore 22 di questa serata caldissima, come tutto il mese di agosto si spera, almeno dopo tanta pioggia un po' di sole ci vuole, insomma. Ricordiamo che questa è una trasmissione dedicata interamente alla classifica di una rivista americana che si chiama Rolling Stones, e questa sera trattiamo dal numero 40 46 sì, fino al 30 all'incirca, e poi nelle prossime puntate arriveremo fino al numero 1. Perfetto. Che non, chiaramente è un segreto, numero 1 quando sarà il momento sarà svelato. Vabbè. Facciamo un altro giochetto, così interrompiamo un secondo la classifica e arriviamo, cioè, ci lanciamo nel 1970. La band si chiama Anonymous Sound e il pezzo si chiama Ombre Vive. Chi è che canta in questo pezzo? La voce? Il numero della MS, SMS 346 23 233. Chi è che canta in questo pezzo dell'Anonymous Sound del 1970? Vai! Prega solo da stasera, son solo, non c'è l'amore, non c'è l'amore, non c'è più un volto nella notte a cui pensare, ed è vano e le sue labbra sta baciando chissà chi. Lo sapevi? No, tu hai letto il libretto? Sì, tu hai letto il libretto? No, cioè, ti spiego. Io sinceramente non lo sapevo. Non sapevo che avesse fatto parte di questo gruppo. Però obiettivamente ascoltandolo qualcosa si capisce. Si riesce a forse chiedendo... Tu che sei un grosso esperto di Pooh, aveva un qualcosa di Pooh nel ritornello, nei cori. Riccardo Fogli forse. Sì, un po' di Riccardo Fogli. No. Non è Riccardo Fogli, no, assolutamente. Anonima Sound, Ombre Vive 1970, 346 23 233. Chi volesse indovinare, il premio è la partecipazione ad assistere a un Rockaway di settembre. Ah, vabbè, hai deciso tu. Un Rockaway di settembre, un'esibizione dei ragazzi che vengono a suonare qui ogni mercoledì sera. Ricordiamo che c'è sempre questo appuntamento, sì, splendido. Che riprende a settembre, dal prima settimana di settembre. Abbiamo già il nostro direttore artistico Alberto, ha già stilato tutti gli appuntamenti da settembre in poi. È già tutto pieno. Andiamo. Però comunque ci saremo di sera durante la settimana. Sì, ci saremo. Non ci sarà Rockaway, però contiamo lo stesso. Facciamo lo stesso. Sì, facciamo lo stesso. Questo è un programma prettamente estivo, è in agosto, e questo giochetto è incastonato dentro una cosa seria, che è la classifica di Rolling Stone dei 500 album più importanti del rock di ogni tempo. Passiamo ai Doors, mitica band californiana. E a proposito di questa band, scrisse all'epoca un tastierista: per ogni pezzo abbiamo sperimentato ogni arrangiamento possibile. Questo è proprio tratto da Rolling Stone dell'epoca. E così l'album nell'insieme ci pare compatto. Il pezzo che vi presentiamo, che è famosissimo, si chiama Light My Fire, è stato composto dal chitarrista Robbie Gregor quando Jim Morrison, mitico Jim Morrison, chiese ai membri del gruppo di scrivere un pezzo con immagini universali. Ripeto che Light My Fire era una session radiofonica. Lui l'ha accorciata, la band l'ha accorciata, è venuto fuori sto singolo, sto 45 giri, che poi nell'album un po' più ampliato, Light My Fire, Doors. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eh sì, pezzo meraviglioso, nonostante tanti anni da quando è uscito, è sempre fresco, sempre splendido. Due, tre cosette ancora su Light My Fire. Musicalmente Light My Fire risente di due ispirazioni. La prima è Bluebird Hill di Fats Domino, mentre l'organo e l'assolo di chitarra pagano qualche debito alla cover in stile jazz di Joel Coltrane in My Favorite Things, l'organo strepitoso. A proposito di Light My Fire, nel suo diario Jim Morrison scrisse questo. Disse che Light My Fire, primo hit dei Doors e rampa di lancio di un'opera prima del 67, assolutamente inqualificabilmente bella, fantastica, non gli piaceva per niente e che detestava il pubblico quando la richiedeva a gran voce nei concerti. Lo sapevi questo? Eppure è così. Storia. È storia citata da Massimo Cotto. The Crystal Ship, per concludere questo bellissimo disco dei Doors. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another flashing chance at bliss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to spend your time. When we get back, I'll jump a line. Che bella, che bella. Dolcissima, dolcissima, veramente bella. molto bello. Da Jim Morrison, da The Doors, mitico primo album della questa formazione californiana. Numero 41, Never Mind the Bollocks, Here the Sex Pistol. Uno scandalo colossale, 1977. Questo fu un disco prodotto da Johnny Rotten, che creò i Sex Pistols, praticamente, il produttore dei Sex Pistols. E all'epoca lui disse: se le sessioni fossero andate come volevo io, per molta gente il disco sarebbe stato inascoltabile. Immagino che sia questa la vera natura della musica. Se vuoi che la gente ti ascolti, devi scendere a compromessi. Non è che siano stati molto grandi i compromessi dei Sex Pistols. Da questo album fu lanciato un singolo molto offensivo, vedi caso, fu pubblicato proprio nel 1977, giorno del giubileo della regina, God Save the Queen, molto offensivo, che però scalò le classifiche inglesi e fu al primo posto per un sacco di settimane, ma per motivi proprio di censura fu retrocesso praticamente. God Save the Queen, The Sex Pistol, 1977. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sex Pistols scatenati 1977, strong. God Save the Queen. Proprio strong questo. Beh, questa è storia della musica. Certo. Si piazza esattamente al numero 41 della classifica di Rolling Stones, i 500 album più importanti della storia della musica rock. Passiamo al numero 40, Forever Change. Parliamo dei Love di Arthur Lee, che era un musicista straordinario, un musicista nero, grande chitarrista, che riuscì a fondare assieme, a coniugare il folk e il rock in un album meraviglioso che si chiamava Forever Change, pubblicato nel 1967. In una session di questo album fu scritto un pezzo, un singolo, The Heavenly Fee, che si chiamava Your Mind and the Belong Together, e molto Hendrixiano. Adesso lo sentiamo insieme. Questo è del 68, quindi l'anno dopo di Forever and Change, era proprio una session di quell'album. I'd like to understand just why I feel like I have been through hell, but you tell me I haven't even started yet. To live here you've got to give more than you get. That's enough. But I said it's alright. I'd like to understand today, then maybe I would know who I was when I was, when it was yesterday. The seasons and the reasons are on display. And I just seem to clutter up my mind, and if it's mine, throw it away, throw it again, once for my girlfriend. So many voices, don't let them stop between my ears, but it appears that there they are, though they're wrong, 10,000 strong. Oh, yeah. I'm locking my heart in the closet. Thank you. una parte molto pop e un'altra un finale totalmente hendrixiano. Questo è Artur Lee, questo è Annie Love, un gruppo molto importante, un po' non considerato all'epoca, ma finalmente poi ha trovato una grande considerazione grazie alla ristampa di Foreign Exchange ed altri, alla ristampa di tutto il loro catalogo. Purtroppo Artur Lee se n'è andato da un po' di tempo fa, qualche anno fa. Passiamo a un mitico album, il primo mitico album dei Quattro Baronetti, Please Please Me, è stato inciso esattamente nel gennaio del 1963. Una cosa sorprendente che è il fatto che l'album venne registrato in soli 15 ore di lavoro dell'11 febbraio 1963. Tu dici i pezzi erano brevi, ma solo 11 ore. La produzione era sempre di George Martin, già all'epoca c'era George Martin. Avevano le idee chiare. Avevano già le idee chiare. In Italia l'album uscì nel novembre del 63, ma con titolo e copertino diversi. Era infatti chiamato semplicemente The Beatles, come abbiamo nell'edizione italiana. E la fotografia, la foto della copertina è particolare. Dopo aver scartato molte ipotesi, George Martin, che era il factotum della band, anche se era il produttore musicale, si rivolse al fotografo August McBean, che convocò i membri del gruppo presso la EMI in Manchester Street, Manchester Square a Londra, e chiese loro di sporgersi dalla ringhiera della tromba delle scale dell'edificio. Ti ricordi il doppio album, quello rosso e quello blu? E quella è la copertina, proprio quella tratta da Please Please Me. Please Please Me, quindi, del 63. Iniziamo a parlare di Please Please Me, questo pezzo mitico. Eccolo qua. Il pezzo che dà nome all'album era stato scritto da John quando ancora abitava a Liverpool, cioè un po' di anni prima, nella casa di zia Mimi. La composizione fiacca e lamentosa, secondo il critico, si ispirava a Roy Orbison. Ha perfettamente ragione. Ti ricordi Roy Orbison? Sì. Ecco, benissimo. Mitico. Che era il pezzo di Roy Orbison, che è Holly the Lonely. E nella seduta dell'11 settembre 62, la versione del pezzo non soddisfava molto a George Martin, che era il produttore musicale della band. E quindi, pertanto, due settimane dopo, il pezzo viene eseguito su 18 nastri differenti. E poi George Martin lo rimise secondo le sue idee e ne uscì Please Please Me. Adesso lo sentiamo. Last night I said these words to my sempre fresco, decisamente fresco, nonostante sia del 1963. A tal proposito, George Martin disse, finita la incisione del pezzo, ai ragazzi: congratulazioni, avete appena finito di incidere il vostro numero uno, disse George Martin. George Martin è il produttore loro. Come previsto da Martin, chiaramente, il brano ebbe un grande successo, Radio Luxembourg trasmise la canzone decretandola un trionfo e perfino la BBC mandò in onda il pezzo dietro le richieste incessanti dei fan. Ok, questa è la storia. Passiamo a Love Me Do. Dunque, la canzone era stata composta da Paul McCartney nel 1958 con l'aiuto di Lennon. C'è chi ritiene che assieme ad altri pezzi scritti da Paul e John, Love Me Do non facesse parte del repertorio di composizioni che il quartetto suonava dal vivo ad Amburgo. Ma non si sa effettivamente. George Martin voleva arricchire il brano per fargli assumere un sound distinguibile e caratterizzante, perciò rifacendogli la sonorità di un duo blues, suggerì di inserire tra gli strumenti anche l'armonica a bocca. Il compito spettò a John Lennon, che aveva imparato i rudimenti dell'armonica da un bluesman che faceva tournée in quel periodo a Londra e si chiamava Derbert McClinton. E poi un'altra cosa, George Martin, quando fu inciso il pezzo, George Martin però non fu molto contento della partecipazione di Ringo e decise di sostituirlo con un session. Quindi Love Me Do, Love Me Do fu suonato da Ringo si limitò a suonare il tamburello e fu suonato da un session, si chiama Andy White. Love Me Do. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ricordiamo che state sempre ascoltando Blu Radio Veneto con la voce di Maurizio Calzavara, che vi sta illustrando, vi sta, come dire, riempiendo di tante notizie assieme ad Agostino in questo programma dedicato alla classifica della rivista Rolling Stones e dei dischi. 500 mitici album di Rolling Stones. Chiaramente per motivi di tempo non sono 500 ma sono solo 40, 45 quanto per noi. Quanto siamo arrivati? Siamo arrivati al numero 38. 38. The Anthology è una raccolta di pezzi incisi, cioè una raccolta uscita non molto tempo fa, nel 2002, di Muddy Waters. Chi è Muddy Waters? Muddy Waters è senza dubbio un grandissimo chitarrista. Iniziò suonando il blues acustico del Delta, ma nel 1943, quando si trasferì a Chicago, ebbe bisogno di una chitarra elettrica per farsi sentire nel fracasso dei locali del South. Il suono da lui inventato gettò le fondamenta del blues di Chicago e del rock and roll. Molti si ispirarono a Muddy Waters, soprattutto i Rolling Stones. Muddy Waters fu un ispiratore al massimo dei Rolling Stones. Da Muddy Waters noi vi facciamo sentire un pezzo, che è questo qua, adesso ve lo dico subito. I can't my mojo working, e Muddy Waters. Ready? shut her mouth for now. Got my mojo working. Got my mojo working. Radio Sera. Blu Radio Sera. Muddy Waters, blues di Chicago. Bello quel suono che faceva con le labbra. Simpaticissimo. Bellissimo. Ok. Posto numero 37. Questo è un... Questo... Avresti sperato un po' meglio, vero? Sì, sinceramente sì, perché io per me è un disco che ha un valore immenso a livello affettivo ovviamente, ma anche per qualitativamente, perché è veramente molto ma molto bello. Io qualche tempo fa ho proposto anche nella versione acustica, che secondo me è straordinaria, lascia veramente la bocca aperta. Sì, ma questa è la versione originale, dell'epoca chiaramente. A proposito di tale Tom Ely, che tu ben sai che è uno dei esponenti della band, disse: semplicemente ci chiudemmo dentro, avevamo un frigorifero, un tavolo da ping pong, dei pattini e un paio di lettini, entravamo e ci rimanevamo per due o tre giorni per volta per fare i pezzi. Cioè, 8 mesi di registrazioni assolute per un capolavoro splendido, un album che ha venduto tantissimo, soprattutto la raccolta ha venduto 30 milioni di copie. Tutti hanno, già avevano i successi di Desperado, sì, di quello prima, di Tequila Sunrise, Dolin D'Alto, tutto quell'album lì era straordinario. Poi però Hotel California ha praticamente fatto una bomba totale musicalmente parlando, e non soltanto dal punto di vista delle vendite in tutto il mondo chiaramente. Hotel California, sono gli Eagles. Thank you.

Ok, qualche aneddoto su questa canzone. La canzone più famosa degli Eagles è anche l'ultima ciambella con il buco perfettamente rotondo, come scrive Massimo Cotto nel suo libro. Don Henley la racconta in una apparizione di uno spettacolo televisivo del 17 luglio 2008, quindi poco tempo fa, circa 2 anni fa. Don Henley e Glenn Frey scrissero la prima parte nel 76 in macchina mentre entravano a Los Angeles di notte. Per loro, che non erano nati là, la California era l'hotel dei loro sogni e Los Angeles era la stanza più lussuosa di quell'hotel. È stupendo, questo è un pezzo che resterà veramente nella storia, almeno per quanto mi riguarda. Io lo adoro tantissimo, mi è sempre piaciuto, mi è sempre preso, poi ha fatto parte della mia vita, della mia esistenza, e penso anche di moltissime altre persone. Restiamo con Eagles, così certo, chiudiamo il cerchio. Cosa hai scelto dopo? Ho scelto un'altra canzone che mi piace tanto, sempre da questo disco, che ripeto si chiama Hotel California. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola New Kid in Town. Perfetto. Ti può andare bene? Certamente. Allora, la facciamo ascoltare. On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something. Atmosfere splendide in questo lavoro del 1976, si intitolava Hotel California e questo era un estratto dal titolo New Kid in Town per chiudere il discorso inerente al gruppo chiamato Eagles. E ci fermiamo anche noi al numero 36, riprenderemo la prossima settimana, ci fermiamo al numero 36 della classifica di Rolling Stones di 500, album più importante della storia della musica rock, è Tapestry di Carole King. A tal proposito, su Onda Rock scrisse una recensione, una affermazione molto interessante che è questa: il suo Tapestry è diventato una sorta di manifesto del cantautorato al femminile. Tra ballate intimiste, confessioni dolenti e protesta femminista. I suoi testi, da You Got a Friend, il pezzo che adesso sentiamo nella versione dell'autrice, il pezzo fu scritto da lei e poi fu cantato da James Taylor, che lo portò al numero uno delle classifiche americane. Un pezzo meraviglioso. Riprendendo il discorso di Onda Rock, sono stati reinterpretati da stuoli di rock star, ma Carole King è stata soprattutto un'icona della generazione dei 70, con i suoi sogni e le sue illusioni, e a tal proposito fu la ispiratrice di cantautrici importanti come Susan Vega, Tori Amos, Sheryl Crow. Questa è stata Carole King, You Got a Friend del 1971, e con questo pezzo termina la piccola parte dedicata dal numero 46 al numero 36 della storia dei 500 album più importanti della musica rock secondo Rolling Stone. La riprenderemo la prossima settimana, penso venerdì. Ok, andiamo con Carole King. Now ain't it good? to know that you've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name and you know wherever I am. I'll come running, running, yeah, yeah, yeah, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo finito, sono 22:59, quindi 23 ormai tempo. Abbiamo finito questa due orette dedicata alla classifica di Rolling Stone dei migliori 500 album della storia, dal 46 al 36. Nelle prossime puntate, nelle prossime settimane arriveremo fino al numero 1, che non vi svederemo chiaramente prima. Ci sarà per gradi, chiaramente. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Grazie ad Agostino Spolavore che mi ha assistito. Grazie ai nostri ascoltatori e vi saluto con un brano meraviglioso, un brano di Van de Graaff Generators, Refugee, 6 minuti di magia completa. Ci sentiamo domani. Bye bye. Vi saluto anch'io, vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, dalle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto, con la trasmissione condotta dal sottoscritto. Cercherò di farvi compagnia, come sempre, con la musica di tanti tipi, e ci sentiamo appunto giovedì. Buona serata a tutti con questo pezzo che piace. Dei Van de Graaff Generators. Ciao. Ciao, ciao. Locked the people's hearts and made them old. South was birth to pleasant lands but dry. I walked the water's depths and played my mind. That we could be free, and we knew. was turned from gray to gold, and you can be with the friends. And light breaks the golden clouds up above. West is Mike and Susie. West is where I love. But now we're refugees, walking away from the life that we've known and loved. Nothing to do nor say, nowhere to stay. L'onda del rock. Starts the mercy part.